Il Ministero della Cultura Popolare, detto familiarmente Minculpoppo, diramava i suoi dispacci ai giornali e i giornali obbedivano. Il tipo di carta che veniva usata, la velina, e l'immancabile successo che riscuoteva favorirono la metafora tuttora in auge. In Striscia la Notizia, dove si crede di esorcizzare il problema della committenza con della finta autoironia, le veline sono diventate le due belle ragazze incaricate di portare i dispacci. Il 27 aprile del 1936, per esempio, il Minculpoppo trasmise l'ordine di riprendere la campagna contro le mosche. Oppure, altro esempio, il 17 luglio del 39 vietò di pubblicare fotografie o disegni di donne raffigurate con il cosiddetto vitino da Vespa. In certi casi l'ordine poi, che so, poteva concernere la stessa tecnica editoriale, titolo su tutta pagina, testo in eretto, il commento ve lo mandiamo noi, come accadde il 23 settembre del 39 dopo un incontro tra il Duce e i gerarchi fascisti a Bologna. L'attività del Minculpop rivela tutto l'interesse dello Stato totalitario nei riguardi della mente del cittadino, come quando nel 1942 invita a non pubblicare più statistiche che dimostrano quanto gli italiani siano dimagriti e a ignorare una relazione dell'Accademia delle Scienze di Parigi sulle virtù nutrizionali della carne di topo. Nessuna notizia avrebbe dovuto mai tradursi né in rimpianti né in rancori né tantomeno in barzellette. Il 14 luglio dell'anno scorso il Corriere della Sera pubblicò un articolo intitolato Pecore infette, allarme nel Senese. Si parlava di un'infezione che avrebbe danneggiato il sistema nervoso di alcuni ovini, dei controlli relativi e degli abbattimenti che, a detta del Ministro della Sanità, erano stati compiuti in alcuni allevamenti. Fino a quel momento, tuttavia, scriveva il Corriere, non si poteva ipotizzare collegamenti con il cosiddetto morbo della mucca pazza. Dal giorno dopo sulle povere pecore senesi è calato un provvido silenzio, ma io ho atteso con fiducia, e pochi giorni or sono, il 29 marzo, sono stato accontentato. Ancora il Corriere titola pecora pazza segnalata in Italia, epidemia. Adesso si dice che l'anno scorso erano stati individuati ben 19 focolai di infezione nel nostro paese, si dice che di questo allarme non si era saputo nulla, evidentemente il direttore del Corriere della Sera non legge il Corriere della Sera, e si accenna ad un coraggioso procuratore che sta cercando di capirci qualcosa. Soprattutto l'articolo tiene a precisare come sembri che l'infezione non venga trasmessa all'uomo. Il che, alla luce di quanto è emerso negli anni dagli studi sull'encefalopatia spongiforme, è veramente troppo. In più c'è un particolare di ordine geometrico che vale la pena di considerare. Mentre un qualsiasi articolo, che so, sulla congruenza ideologica tra tiro alla fune e Lega Nord occupa un articolo di 27 cm di larghezza per 40 di lunghezza, ed è, che so, a pagina 4 o 5 o 6, le pecore infette del 97 sono ridotte a pagina 15 in 3,5 cm per 23 e quelle attuali, epidemia, notate, a pagina 14 in un 3,5 per 27. In spazi residuali, insomma, più nascosti che si può. La coincidenza delle scelte spaziali non lascia dubbi sulla malafede. Oggi si dice il Minculpop non c'è più. No, ce ne sono tanti. Tutti ben funzionanti e tutti impegnati notte e giorno a governare la nostra mente. I mangimi a base di rifiuti animali inventati per gli allevamenti del bestiame producono morte in una catena alimentar finanziaria che nessuno vuole spezzare. Gli interessi sono troppo forti e tutti si scaricano delle responsabilità nel più perfetto silenzio che sia possibile ottenere. I giornali obbediscono, e al minimo rimprovero sono pronti a spendere l'alibi sempre pronto costituito dalla loro missione sacrosanta di non diffondere allarmismi. Se l'Europa comincia così, vi lascio immaginare il seguito. C'è un brano decisivo della Tamburina di Le Carré che mi torna spesso alla memoria, no? È quello di Khalil, il ricercatissimo terrorista palestinese. Khalil è con Charlie, che è un'attrice inglese reclutata dai servizi segreti israeliani per incastrarlo. Siamo in campagna. Khalil guarda dalla finestra e nota che sulla strada vicina non passano automobili, né passano esseri umani, che nessuno, nonostante l'ora, porta le mucche al pascolo. E Charlie dice, saranno andate alla mungitura. Ma Khalil sa che di solito alla mungitura le mucche ci vanno 2 ore dopo. Allora Charlie aggiunge, è per la neve, le tengono al coperto. Ed è un'aggiunta di troppo. Ci mancava solo che dicesse avranno l'encefalopatia spongiforme. È un'aggiunta di troppo perché Khalil la nota e si chiede come mai la sua compagna stia cercando delle scuse per giustificare l'assenza di vita intorno alla loro casa. Capisce che in quella mente troppo pronta a sanare ogni differenza, c'è una colpa. E capisce che il servizio segreto israeliano l'ha fregato. Mentre Charlie capisce di essersi tradita e che per lei, come per lui del resto, non c'è scampo. Immagino come deve essersi sentita lei e so benissimo come si è sentito lui. Mi basta leggere il giornale. Quando, senza che ne senta la necessità, mi si tranquillizza. Quando fra notizie ridotte al lumicino o sparite del tutto, vengo preso dalla fastidiosa sensazione di essere stato irrimediabilmente ingannato.